sango suka sombo Lena yebiti na simete Letona bawa puna alamo Ipota la peta kisemo Soki tukuta nina lelate Fierte jena yo esiminga Binjoli ama kilana we Liridi Amor